Radio 24. Libera la voglia di fare. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Partiamo da uno dei miei film preferiti, uno proprio della mia top ten. È un film che ho visto un sacco di volte, se me lo fate vedere senza l'audio ve lo doppio io. È un film di sordi, è veramente un classico della commedia italiana. Sto parlando del Vedovo. Bene, ma lui era vedovo di chi? Di una signora milanese, un po' bruttina, insomma non bellissima, molto snob, dalle battute affilate, una signora che lo chiama Cretinetti, perché c'è questa coppia dove lui è un incapace, è megalomane, invece la moglie è una grande, un grande personaggio della finanza, è abile, intelligente. Lei, la donna acuta che sa vivere, si chiama Almiraghi, lui sordi è Nardi, quindi lei in teoria sarebbe la signora Nardi, però in realtà nel film tutti chiamano sordi con il nome della moglie Almiraghi e lui si irrita, ma è lui il cialtrone nella coppia. Comunque lei ha spesso interpretato donne di questo genere, la signorina snob oppure la sora Cecioni, la manicure Cesira, la moglie felice ma un po' ingenua, la diva, la domestica tuttofare. È stata capace di creare una galleria infinita di ritratti femminili che ci fanno ridere ancora oggi, che riflettono perfettamente, anzi probabilmente quasi anticipando i tempi, le piccole ansie e i difetti, ma anche la grande umanità delle donne italiane. Lei ha uno humor e una sottigliezza insuperabili. Non so perché a me il fiore non mi dice. Tante volte per dire anche al ristorante, si è magari con un uomo e tutto, vengono col mazzolino, prenda per questa bella signorina, gradisce, fa magari lui, vero? Io per dire una bottoniere la rifiuto. Se un omaggio ci deve essere, preferisco il marron glacé. Gusti, sa. Eh sì, l'avete riconosciuto, ho lasciato che foste voi a capire di chi stiamo per parlare, Franca Valeri. E non parliamo di un'attrice comica, non solo, lei è questo e tante altre cose, soprattutto lei è una scrittrice, una che ha sempre cesellato i suoi ritratti con la penna prima che con le parole. E poi ha partecipato a molte delle sceneggiature dei film che ha interpretato, in anni in cui alla donna non veniva dato molto spazio in cabina di regia. E poi i libri, più di 10 in questi anni, l'ultimo è stato appena pubblicato e lei ha 96 anni all'atto della pubblicazione. Non è bello dire l'età di una signora, ma nel suo caso vale la pena ricordarla, perché lei è stata ed è un pilastro della comicità italiana e di una intelligenza tutta italiana, femminile. Lei sa mescolare la cultura popolare, quella della strada, con la sua raffinatezza da intellettuale. Lei è sveglia, acuta, è nutrita, si vede da buone letture, insomma si vede che è una che ha letto molto e ha frequentato anche persone di grande livello. Nella comicità di Franca Valeri, se la strada è lo stimolo, è l'intelletto che riesce a trasformare l'ispirazione in pezzi di così grande comicità. Come dice lei, la comicità è un lavoro del cervello. È come il gioiello, a me non mi squadra. Guardi, a me la pietra mi fa orticaria. Proprio una cosa di famiglia, non è ripugnanza mentale, viene proprio dal tessuto epidermico. Io piuttosto che una broche metto una coccarda, a parte il fatto patriottico, vero? Ma il nastro sulla pelle ha sempre fatto il suo più bel contrasto, sempre avendo la carnagione in ordine, come modestamente, vero? Setta su setta, ecco, non è ambizione, è natura, insomma. Semmai nel campo dei preziosi l'unica cosa che sopportavo era la perla, più che altro per non levare il pane ai pescatori, che so, di solito sono anche dei bei ragazzi, allora davanti all'esigenza sociale, tanto di cappello. Ma adesso che le coltivano, chiuso, non mi prendono più. Mi sembrerebbe di mettere al collo un cavolfiore. E che l'intelletto sia la base della comicità di Franca Valeri lo si capisce già dal suo nome, perché Valeri in realtà è un cognome d'arte ispirato al grande poeta simbolista francese Paul Valéry, e lei ha scelto questo nome assieme a una sua grande amica che si chiama Silvana Ottieri. Il suo vero nome è Franca Norsen, di famiglia alto borghese, ricca, con le amicizie giuste. Mio padre è Luigi, un ingegnere mantovano, esperto in acciai speciali, ambiziosissimo. Mise il veto all'utilizzo del cognome di famiglia. Temeva che lo infangassi con un insuccesso. Un giorno, Silvana Mauri, moglie dello scrittore Ottiero Ottieri, aveva fra le mani un libro di Paul Valéry, edito dallo zio Valentino Bompiani. Fu lei a suggerirmi il nome d'arte italianizzato. Anni dopo, mentre recitavo a Parigi, vennero a trovarmi in camerino i figli del poeta. «Madame Valéry, nous sommes un peu parents», si complimentarono. La nostra Franca nasce a Milano, 31 luglio del 1920, zona Magenta, zona di famiglie bene della città. Forse è anche per questo che le verrà a meraviglia quel meraviglioso ritratto della signorina snob. La madre è intelligente, è pragmatica, forse un po' perfida, se bisogna ascoltare interviste come questa di Franca Valéry. Mia madre Cecilia mi fece credere d'avermi acquistato per 50 lire da una vecchia che in una sera di pioggia le aveva portato un fagottino, spacciando il neonato in fasce per un maschio. A buon mercato. 50 lire del 1920 corrispondono a 55 euro di oggi. La richiesta iniziale era di 100 lire, ma avendo mia madre scoperto che ero femmina, la megera smascherata si accontentò della metà. E lei manda i figli alla scuola pubblica perché fa bene, fa prendere lezioni di francese, da piccoli li porta alla Scala per godere dell'arte. Il padre Luigi è raffinato, esterofilo, antifascista e goloso, come lo definisce nella sua autobiografia bugiarda, no reticente. Però è un altro problema, è ebreo, e lì in quegli anni essere ebreo è un problema. Nel 1938 l'Italia, che lo sapete, introduce le leggi razziali, e la famiglia Norsa, come molte altre, conosce le ingiustizie della segregazione, e Franca però sembra prenderla abbastanza bene. Mi ero premunita, ero rimasta a casa e feci 2 anni in uno. Ero al Parini. Per depistare diedi l'esame al Manzoni. Non se ne accorsero. L'Italia ha sempre avuto le sue inefficienze. E poi quando scoppia la guerra cambia tutto. Finiscono le vacanze a Riccione, finiscono le vacanze in montagna, le serate tra amici, niente più palco alla Scala. Il padre e il fratello vanno in Svizzera, mentre Franca e la madre cercano di nascondersi a Milano o nei dintorni. Mi nascosi dappertutto, in Brianza, sopra Lecco, poi a Milano in via Mozart, in una casa bombardata. Sopra di noi viveva una ragazza molto giovane e bella che si era appena sposata. Un giorno, rientrando, vidi la porta socchiusa. D'istinto me ne andai. Dietro c'erano i tedeschi. Presero la sposina. Non è mai tornata. Alla fine mi salvò un coraggioso, un impiegato del comune di Milano, che mi procurò una carta d'identità falsa. Ho avuto un momento in cui io non ero io. E dai documenti infatti risulta che Franca è la figlia illegittima di una certa Cecilia Pernetta di Pavia, e la sua salvezza, perché finita la guerra lei è ancora lì e può tornare alle amicizie di sempre, che sono i bei nomi dell'alta borghesia milanese, dalla cara Silvana a Camilla Cederna, che è di alta borghesia a dispetto di idee politiche di tutt'altro tipo, Ludovico Belgioioso. Però il destino di Franca non è quello di tornare a far la brava ragazza che dopo gli studi si sposa, fa figli e invita a cena i colleghi del marito. Forse perché è influenzata dalla magia della Scala, forse perché questa famiglia in fondo l'ha contagiata. Fatto sta che la Valéry decide di tentare la via del teatro e per farlo abbandona Milano e approda a Roma. Pronto? Istituto di igiene? Ufficio proprio? Senta, io sono un cittadino che vorrebbe protestare per lo scempio degli oggetti dimenticati sulle tombe, se le potrebbero ritirare. Ah, per lo scempio cittadino bisogna rivolgersi comunque alla nettezza urbana? Ah, capito. Non c'ho presente il numero in questo momento. Ah, inutile che chiamo perché tanto trovo occupato? Ah, peccato, gli potevo passare parola per i cocci di Capodanno prima che via l'estate. Il falco e il gabbiano. Così la nostra protagonista di oggi, Franca Valeri, arriva a Roma subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Arriva con la sua aria per bene, ma con la convinzione di poter diventare una grande attrice. Ma all'esame all'Accademia d'Arte Drammatica viene subito bocciata. Avevano ragione. Ero una ragazza dall'aspetto infantile, di bassa statura, con un cappotto blu e un cappellino tondo. Presi bene la bocciatura. Anziché studiare, avrei lavorato. Nella mia infinita presunzione, ero convinta che sarei diventata attrice lo stesso. Una cugina di mio padre, che mi ospitava a Roma, mi resse il sacco per 3 anni, fingendo con i miei che frequentassi l'accademia. Divenni amica di Ennio Flaiano, entrai in un giro straordinario di gente molto più grande di me. La sera recitavo a braccio nelle loro case, inventavo. In breve, divenni la loro vedetta. In questi primi anni romani conosce Vittorio Caprioli, grande attore di origine napoletana, col quale forma insieme anche a Alberto Bonucci il Teatro dei Gobbi, e il trio ha un successo enorme subito grazie a degli sketch satirici semplici, efficaci. Nel 49 debuttano a Parigi in un piccolo teatro del quartiere latino e hanno anche lì critiche molto positive. Dopo anni di sodalizio la Valeri si sposa anche all'interno del Teatro dei Gobbi, cioè si sposa con Vittorio Caprioli. Siamo nel 60, si dice che la crisi avvenga al 7° anno, in questo caso avviene al 14°, fino al 74 in pratica, tra alti e bassi. Gli alti, molti grandi film insieme che fanno parte delle grandi commedie leggere degli anni 60, Leoni al sole, Scusi facciamo l'amore, Parigi o Cara. Parigi o Cara? È il film che all'ultimo Festival d'Arte Cinematografica di Venezia ha svegliato gli spettatori della mostra dal letargo di 14 giorni di noia e li ha scaraventati nel fantastico turbinio delle piccanti avventure vissute dalla straordinaria protagonista, Franca Valeri. Senti, domenica mi è sorpreso lo sfizio di leggermi tutto massaggi cure estetiche. C'è sta cinese, giapponese, indiana. Ma prima sono stata io a metà orientale, adesso tutte esotiche sono diventate pure te. Prima erano bolognesina, romanina, piccola veneziana. Che, guarda se ti piace. Orientale... Ah, ce lo metti? Sì, le solite 5A, no? Orientale, segreta, riservata... Freschezza... Un momento, congedandosi temporaneamente, avverte ringraziando clientela. Si capisce, no? Mi pare gentile pure signorile. E questi sono gli alti, poi ci sono i bassi, che sono dovuti, diciamo, alle molte leggerezze di Caprioli, che certo non era il tipico marito fedele, ammesso che esistano tipici mariti fedeli. Vittorio era un uomo molto attratto dalle donne. Amava piacere e ci riusciva con la sua simpatia e qualche bassezza, tipo la chitarra e le canzoni napoletane raffinate alla Murolo. Comunque era molto attaccato al nostro rapporto. Il mio guaio con gli uomini è stato sempre quello di rendermi indispensabile, una specie di roccia, un sostegno nella vita e nel lavoro. Intanto loro facevano un po' quello che volevano. Non ho mai fatto scenate né sventolato valigie. Quell'uomo che cerchi non sono io, è stato scolpito da te. La carriera cinematografica di Franca Valeri e in realtà era già iniziata prima dei film con Caprioli, perché nel 50 ha una particina in Luci del varietà di Latuada e Fellini, fa una coreografa ungherese che si chiama Mizzi. Mizzi, la coreografa. Bonjour tout le monde. Bonsoir, anzi, stupidi, chi confonde stagione e tutta. Gli credi che deve fare che le cure americana per questo, che loro non sa niente de danze, ma bravissime de medicina. Io ho pensato, per questo mio pubblico, forse poteva fare una piccola danza per loro, una piccola Greek, che questo è sempre carino. Un Strauss, come che fate in Stockholm in 39. Chi loro voleva diventare matti da soddisfazione, questi svedesi, so. la produzione è difficile, ci sono molte difficoltà, ma lei riesce a ritagliarsi una piccola nicchia molto interessante, cioè ci fa capire con quale passo si muovesse Franca Valeri. Poi nel 55 fa un altro film, si chiama Il segno di Venere di Dino Risi, è un film molto molto bello, insomma l'ho visto, è carino. Ci sono due cugine, una è bella ed è la napoletana Agnese Sofia Loren, e l'altra è una milanese un po' opaca che è Cesira, appunto Franca Valeri. Vivono insieme a Roma, entrambe sono in attesa del grande amore, ma i risultati sono molto diversi. C'è Sordi con una scena bellissima in cui cerca di vendere una macchina rubata a De Filippo, perché lei si innamora di Sordi, che è un poco di buono, come spesso accade insomma nei film. La Valeri è sceneggiatrice anche di questo film e lavora al fianco di gente come Risi e come un certo Ennio Flaiano. Il segno di Venere è il terzo film in cui lei incrocia Alberto Sordi, e questo sarà un sodalizio importante. Ne faranno 7 film assieme, e due campioni della comicità italiana che si misurano con grande bravura. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di un gigante della comicità e della scrittura e della recitazione di questo paese. Stiamo parlando di Franca Valeri, quella che ha creato alcuni dei personaggi femminili più incisivi e indimenticabili nella storia del nostro spettacolo: la signorina Snob, la signora Ceccioni, ma anche ritratti meno conosciuti come l'attrice di Belle Speranze alle prese con la madre. L'attrice e la mamma. Pronto? Sì, sono io. Pronto, mami? Mamini? Ma musti, diavola, ma fai spendere 20.000 lire per l'apparecchio acustico. Gioietta? Hai messo la cuffiettina? Santa lei. Sì, tesoro, sono alla televisione, sì, vado in onda fra un'ora. Ti spiegherò. Peppa parle. A posmia parla, mamma. Sì, faccio una cosa interessante, culturale, sì, una cosa elevata. No, mamini, no, pas de invernizio. Una cosa storica, mami. Carosello. L'asso nella manica di tutte le invenzioni della Valeri è la scrittura, perché la sua non è una comicità improvvisata, frutto di una suggestione momentanea. Oggi siamo abituati ai comici, sono un po' cialtroni, che dicono delle battute così anche un po' a caso. Lei scrive tutto quello che poi recita sul palcoscenico, ogni battuta viene affilata con lavori di cesello, e a questa arte naturalmente si aggiunge il talento comico, la bravura interpretativa, che è una capacità che lei ha fin da quando era piccola. A 5 anni già facevo le imitazioni in famiglia e cantavo le operette di Franz Lehár, la danza delle libellule e Gigolette. E le sue imitazioni iniziano quando vive ancora con i genitori, forse la stessa signorina Snob, e di certo l'ambiente che frequenta da giovane le fornisce ampio materiale di studio. Pronto? Ciao Stelin, come va? Troppo. Senti, ti prego non parlarmi di golf, mi si fa sull'anima vite doppia. Non posso, Stella, che rabbia. Ma Gioia, come fai a dire una cosa simile? Stamattina ho fatto una levataccia, guarda, pregallica. Alle 9:30 avevo già il clistero americano. Senti, a proposito, fallo, sai. Ah, no, sai cosa di bello? Guarda, ti senti d'un bene dopo? Io sono qui che ho una pelle, sai, dei colori? Guarda un Tiziano, quarta maniera. La signorina Snob fa il suo debutto televisivo nel 54 durante uno spettacolo del Teatro dei Gobbi. Vi ricordate il trio in cui recita assieme a Caprioli e a Bonucci? Il personaggio attira l'entusiasmo di Indro Montanelli e della moglie Colette Rosselli, che propongono alla Valeri di scrivere un libro intitolato Diario di una signorina snob. La Rosselli si offre di fare le illustrazioni. Il libro è un successo immediato perché è il ritratto irresistibile di una parte molto precisa della società italiana del tempo, con delle persone che stridono ormai nei confronti di un mondo che si sta evolvendo in un'altra direzione. Come sta, presidente? Si ricorda di me? Momola, Momola Menardi. Senta, presidente, dunque, siccome io ho un periodo di tempo libero da, diciamo, incastrare tipo cuneo fra due periodi di surmenage atroce le risparmi particolari, vero? Ora in questo cuneo io ci intrometterei un lavoro. Dunque, guardi, presidente, io mi occupo di European Refreshment, sarebbe un po' come ti rinfresco l'Europa, non so. Arrivano questi stranieri di oltreoceano, hanno ostilità per questo mondo vecchio, non so, gli dà noia a rudere, gli urta l'albergo cadentino, gli secca la scala a piedi, detesta il quadro sacro. Io gli faccio ingoiare tutto questo, ma glielo compenso, non so, con un bar carino, un pranzetto bene, una nuotata simpatica, quattro frittelle orride che gli ricordano casa sua, no? Veramente era avanti sui tempi, cioè sembra scritto ieri. E lei non imita solo le ricche ragazze un po' annoiate dell'alta borghesia. Nel 60 ha un altro grande successo con un personaggio opposto, la signora Cecioni. È una romana, è perennemente al telefono con la madre, mamma, indossa sempre i bigodini. Forse la ragione di questi successi è data dal fatto che le donne della Valeri sono vere. Naturalmente c'è una caratterizzazione, ci sono degli eccessi teatrali, però sono persone che hanno le loro ossessioni, le loro manie, le loro piccole infelicità e che in qualche modo rappresentano l'Italia di quegli anni, come la moglie Felice, per esempio. Non viene a casa stasera, io sono contenta perché ha ben diritto di distrarsi un po' anche dove si pare. E poi non è che mi lascia sola a casa, no. C'ho i miei bambini, c'ho la donna di servizio, c'ho mia suocera, così una brava donna, non so, mi tratta proprio come una figlia, non, per dire, non si fa riguardo di niente, sai? Per esempio mi adotta la mia roba, e mio marito, scusa, che fastidio mi dà, non viene mai a casa, ma siccome so che tanto passa la serata con una brava ragazza, allora mi devo preoccupare. E questo, guarda, io lo so perché lui a me mi racconta tutto. Proprio un bravo marito. Se non ha confidenza in sua moglie, scusi, chi ce la deve avere? E poi c'è la moglie storica, quella di cui abbiamo parlato all'inizio, la milanesissima moglie di Alberto Sordi nel film Il Vedovo. Sordi è un marito, è romano, ma comunque un ruolo stereotipato, cioè lui fa il cialtrone che vive alle spalle della moglie pensando invece di essere un grande imprenditore, un grande manager. Poi c'è un incidente ferroviario e tutto lascia pensare che la moglie Franca Valeri, la signora Almiraghi, sia morta, quindi Sordi eredita tutto e quindi sta già pensando a una sua nuova vita da vedovo miliardario, e invece la signora c'è e ritorna inaspettata. Alberto! Cosa fai, cretinetti? Parli da solo? Quella è una scena meravigliosa. Lui stava già pensando di convertire i bovini in aree edificabili, stava pensando già di fare delle cose, dei disastri da megalomane, qual era, e lei torna e gli dice: cosa fai, cretinetti? Parli da solo. E insomma, stiamo parlando di un gigante, e nonostante ormai stia consolidando la sua fama nel cinema nazionale, per lei ci sono sempre quelle parti lì, quella bruttina che viene lasciata per un'altra più bella e più procace, ma a lei non importa, perché intanto è una donna consapevole delle sue capacità, sa forse di non essere proprio un sex symbol, però ha altre doti, è intelligente, è colta, e soprattutto tutti questi personaggi le danno la possibilità di raccontare una Italia che sta cambiando con il suo grande acume, e lo dimostra anche per esempio in questa pubblicità. Polimer presenta Corrispondenza immaginaria di Franca Valeri. Mi è particolarmente gradito questa sera rispondere a una signora milanese che si firma dagli Appennini alle Ande, mi dice. Mio marito, da un momento all'altro, può essere inviato per affari in India oppure in Finlandia. Mi porterebbe con sé. Come regolarmi per il guardaroba? Ho pochi abiti e dovrei farmi qualche cosa, ma sono climi così diversi. Certamente, mia cara. Perciò eccoti alcune norme pratiche per essere pronta ed elegante nei due casi. Ti farai almeno due abitini ampi e piuttosto leggeri, che porterai separatamente nei paesi caldi e l'uno sull'altro in quelli freddi. Indispensabile, naturalmente, le calze di lana, maglia rasata, righe orizzontali di colori vivaci, che calzerai in Finlandia, pronta a mettertele sulla testa in India come i nostri simpatici pescatori siciliani. E spesso sul set lei indossa i suoi vestiti personali, il suo sarto è il famosissimo Roberto Capucci, e quindi la produzione, insomma, glielo fa fare. Negli anni 60 adotta il taglio dei capelli a caschetto, quello che viene chiamato taglio Vergottini, che non abbandonerà mai più, perché lei dice, la cito testualmente: diffido delle donne che cambiano spesso pettinatura perché è indizio di scarsa personalità. Però a noi uomini piace, insomma, avere delle donne che cambiano pettinatura. E lei invece comunque di personalità ne ha tantissima, lo dimostra nella sua vita, che è una vita anticonformista. Nel 74, per esempio, divorzia da Caprioli, poi inizia una lunga storia d'amore con un giovane direttore d'orchestra che si chiama Maurizio Rinaldi. Per anni sono stata con un vero grande traditore. I direttori d'orchestra sono così, pericolosissimi, magnetici poli d'attrazione. Consideri che lui aveva 14 anni meno di me, tanti. Era un ragazzo attraente, un compagno piacevole, affettuoso. Mi chiamava asino, animale che adoro. Cosa volevo di più? Anche nell'amore lei è un po' la signorina snob, una donna che non si piega alle piccolezze della vita, che ha un concetto superiore dell'unione amorosa. Non mi sono mai messa nella condizione di essere una stazione di posta, però mi rendo conto che la natura maschile è quella. Non si può programmare l'eternità. Ogni uomo ha un suo modo di vivere, anche quando è sinceramente innamorato di te, prova il medesimo sentimento per un'altra. Che cambia? Di occasioni ne avrei avute molte anch'io, ma non ne ho mai approfittato. Guai se la gelosia entra nelle piccole cose. Dividersi per una scappatella è da stronzi. Non ha figli da nessuno dei suoi due grandi amori. Una decina d'anni fa ha adottato una figlia, il soprano leggero Stefania Bonfadelli, perché le uniscono l'amore per la musica lirica, le uniscono una grande amicizia. Oggi Franca Valeri abita sul lago di Bracciano, in una grande casa che ha già donato al WWF, perché la sua altra passione sono gli animali. Lei vive con due gatti e sette cani, chiamati come i grandi personaggi delle opere liriche. Con loro lei non ha il tempo di annoiarsi, del resto non si è mai annoiata. Mai annoiata. Ho sempre fatto quel che mi piaceva. Ho coltivato le amicizie. Mi sono divertita. Eravamo giovani. L'avanzamento dell'età, se hai la fortuna di vivere a lungo, comporta purtroppo un problema insormontabile. Che gli altri muoiono e tu rimani solo. Ci sono persone che hanno saputo volare in alto per la loro bellezza o perché sapevano far bene una cosa. Ecco, Franca Valeri ha volato in alto perché ne sapeva fare tante, perché ha saputo raccontare un'Italia ben precisa, quella del boom economico e del post-boom economico, inventando dei personaggi, scrivendo e costruendo la sua comicità con molta cura e naturalmente con grandissimo talento artistico. E questi sono colpi d'ala quotidiani che durano e durano e ancora durano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, visitate la nostra pagina su radio24.it, scriveteci al falcoelgabbiano@radio24.it, e poi c'è il mio Facebook, il mio Twitter, il nostro Facebook, il nostro Twitter, e insomma ci sono mille modi per incontrarci. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.